like fire. I'm so in love with you, hurts the soul. Make love your Dal 1998, il 10 dicembre è la giornata internazionale per i diritti degli animali. La ricorrenza è promossa da un'associazione inglese, Uncaged Campaigns, letteralmente campagne senza prigione, e si articola in migliaia di iniziative in tutto il mondo per mostrare all'opinione pubblica la realtà dello sfruttamento degli animali e per promuovere la Dichiarazione Universale dei Diritti Animali, Universal Declaration of Animal Rights, che si può leggere sul sito di Uncaged Campaigns e anche sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. La dichiarazione è stata firmata da numerose organizzazioni, grandi e piccole, provenienti da più di 30 diversi paesi. In questi anni le mobilitazioni hanno fatto sì che i temi dell'animalismo e dell'antispecismo fossero dibattuti anche in ambito politico. Ad esempio, il Parlamento della Nuova Zelanda ha approvato l'inserimento nel codice giuridico di leggi speciali a protezione degli ominidi non umani, più comunemente conosciuti come grandi scimmie. Le imminenti festività sono anche l'occasione per far riflettere le persone sulla strage che prelude al pranzo di Natale. Per questo molte tra le iniziative in Italia avranno come argomento cardine quello dell'alimentazione. Questi i principali appuntamenti per la Giornata Internazionale per i Diritti degli Animali di quest'anno. A Bologna, il 7 di dicembre, l'associazione Esseri Animali ha organizzato un'azione dimostrativa per la Giornata Internazionale per i Diritti Animali. Il titolo è Pescato, col punto esclamativo. Finalmente quindi si parla di pesci. Piazza del Nettuno sarà testimone di un'azione dimostrativa di forte impatto, una dichiarazione di assoluta solidarietà a tutti quegli individui torturati e uccisi, ma che come noi hanno diritto alla vita e alla libertà. Un ammonimento a una società apatica e ancora troppo indifferente. A sostenere e rappresentare ogni vita di questo pianeta, questa volta saranno i pesci, esseri tanto intelligenti quanto splendidi, tra i più sterminati. Racconteranno la violenza e la tirannia di una specie a discapito di tutte le altre. Chiunque può essere partecipe all'iniziativa. Esseri Animali distribuirà un cartello a ogni persona che intende condividere questo tipo di messaggi. Per informazioni, info@essereanimali.org. Appuntamento dunque per venerdì 7 dicembre alle ore 14:30 in Piazza Nettuno a Bologna. L'appuntamento di Animal Equality, attivismo per gli animali, è per domenica 9 dicembre 2012 tra le 10 e le 13 in Piazza della Rotonda al Pantheon, a Roma. Dal sito di Animal Equality. A Roma, insieme, per mostrare la verità. Miliardi di animali capaci di provare emozioni e sensazioni come qualsiasi essere umano muoiono ogni anno in un numero imprecisato. Dal 2008 la nostra organizzazione realizza per la data più adatta, in prossimità del 10 dicembre, una manifestazione molto sentita, coinvolgendo diversi attivisti che, predisponendosi in silenzio, mostrano all'opinione pubblica i corpi senza vita degli animali, le vittime vere, reali e troppo spesso ignorate. Si tratta di un momento unico, solenne ed emozionante, in cui ogni persona sensibile alla sofferenza degli animali può entrare direttamente in contatto con gli individui di cui si sente parlare o raccontare attraverso video o foto. È questo un tipo di manifestazione piuttosto urticante, diffusa soprattutto all'estero e poco praticata in Italia. Mostrare in silenzio i corpi senza vita di animali recuperati da allevamenti e macelli è un'azione provocatoria che va a colpire il perbenismo e il conformismo di chi non vuole conoscere l'origine delle pietanze che vengono disinvoltamente servite sulle nostre tavole, tra amici, bambini e parenti. È un colpo basso alla coscienza assopita di tanti disinformati e di chi, pur sapendo, rimuove per non chiedersi che fare. Anche nell'ambiente animalista questo tipo di manifestazione è talvolta controversa. Certo è che quel che finisce nei piatti non sembra avere più alcuna relazione con il corpo vivo di un animale. E questa manifestazione ha il pregio di mostrare a tutti l'anello mancante, la verità occultata, ovvero l'animale ucciso, ucciso per diventare merce, ucciso per diventare profitto, ucciso per venire poi cucinato e servito nelle nostre tavole. L'appuntamento dunque è per domenica 9 dicembre 2012 a partire dalle ore 10 in Piazza della Rotonda al Pantheon a Roma per una manifestazione triste quanto necessaria. Maggiori informazioni nel sito www.giornatapergliianimalituttoattaccato.org. Thank you. Vi state chiedendo, ma quelli che dicono di essere cruelty free ogni tanto, ma che si incazzano? Vi state per caso chiedendo, come faranno vegani a reggersi in piedi? Poi magari vi state chiedendo, quando tu principi a diventare animalista, non è che Pontus sei più capace di divertirti a bestia? Per togliersi la curiosità non resta che venire alla nostra cena. Domenica 16 dicembre 2012 a partire dalle 20:30 presso la Casa del Popolo di Settignano. Save the date! Segnatelo sui calendario. Maggiori informazioni nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com.